Il 26 ottobre l'operazione di salvataggio delle forze speciali russe provoca 90 vittime fra gli ostaggi. Tra questi l'unico figlio di Irina Fadeva, Yaroslav, colpito da una pallottola russa. Irina non ha mai ricevuto alcuna spiegazione e se è riuscita a superare questo dolore immenso e a rifarsi una vita è proprio grazie al suo incontro con Anna Politkovskaya. È successo nei giorni successivi alla tragedia. Avevo un disperato bisogno di raccontare a tutti la storia di mio figlio, ucciso dalla ragion di Stato, non dai terroristi. Dall'ottusità, cioè di un potere che volle a tutti i costi mostrare i suoi muscoli, sacrificando senza pietà la vita degli ostaggi. E così andai a trovare Anna al giornale. Lei mi ricevette subito, chiedendomi con la sua voce dolcissima: cosa posso fare per aiutarti? Le spiegai il mio problema e le dissi anche che ormai non c'era più tempo perché il lutto stava per terminare. Ma lei mi rispose: non preoccuparti, vedrai che ce la faremo. E il giorno dopo su Novaya Gazeta uscì un articolo su mio figlio. Per me Anna era diventata una persona di famiglia. Ci scambiavamo visite, ci sentivamo al telefono e poi ci vedevamo alle riunioni del comitato dei familiari delle vittime della Dubrovka. Lei all'inizio era contraria all'idea che ci costituissimo in comitato. Diceva che il nostro dolore era troppo grande e difficile da gestire, che ci avrebbe sovrastato. Poi però cominciò a venire anche lei alle nostre riunioni e da allora ci ha sempre dato una mano. C'era un legame fortissimo tra Anna Politkovskaya e i familiari delle vittime della Dubrovka, nato soprattutto in virtù della sua capacità di condividere il dolore altrui e battersi per i diritti dei diseredati. A parlarcene Tatiana Karpova del Comitato delle Vittime della Dubrovka e Irina Fadeva. Le autorità ci hanno sempre nascosto l'elenco degli ostaggi rimasti vittime del blitz nel teatro. E noi siamo stati costretti a fare il giro dei cimiteri e degli ospedali per avere notizie. Così siamo arrivati alla cifra di 129 morti. La procura l'ha subito confermata. Ma i conti non quadravano ancora. E giorno dopo giorno, mese dopo mese, siamo riusciti a scoprire nuovi decessi che erano stati occultati. Al momento le vittime accertate sono 174. E l'elenco purtroppo non è definitivo. Noi del comitato abbiamo imparato molto da Anna. In un suo articolo lei scrisse una frase che per noi è diventata una pietra miliare. Diceva: cos'altro ancora permetteremo alle autorità di farci subire? Cos'altro? È stata questa frase che ci ha insegnato a lottare e che ci ha dato poi la forza per andare avanti in tutti questi anni, con dignità e caparbietà. Come si fa a uccidere qualcuno che è armato solo della sua penna? Come si fa? Io una risposta ce l'ho, anche se di politica non capisco nulla. Avevano paura di Anna. O meglio, avevano paura della gente che Anna avrebbe potuto ancora aiutare. Con lei è caduto un muro, il muro della resistenza. Dunque avevano paura di Anna, della sua passione, della sua intelligenza, anche se in fondo Anna era armata solo della sua penna. Ma chi la temeva in realtà temeva proprio questo, un certo modo di fare giornalismo. Nessuno impediva a me o ad altri miei colleghi di andare alla Dubrovka per portare acqua agli ostaggi. Ma nessuno l'ha fatto. Nessuno eccetto Anna. Forse per snobismo. O forse per mancanza di coraggio, che abbiamo camuffato da finta professionalità, dietro l'idea, cioè, che il giornalista deve sempre essere neutrale. Ma questo è un principio che vale solo in astratto, in una situazione asettica, ideale. Perché la verità è che oggi in Russia un giornalista non può restare indifferente, neutrale. Anna l'aveva capito, e infatti non aveva paura di sporcarsi le mani. Non era più una semplice spettatrice, ma partecipava agli eventi di cui si occupava, con tutti i rischi che questa scelta può comportare. Avete sentito il giornalista Vadim Rykalov?

In occasione di un arresto e in occasione di un tentativo di fare luce sulle circostanze dell'assassinio di un abitante di Grozny. Sono stata picchiata esclusivamente perché facevo il mio lavoro di giornalista, che consiste nel raccogliere informazioni. E sempre mi veniva contestata la stessa accusa. Sei dalla loro parte. A volte passeggio tra le rovine della capitale cecena. Parlo con i suoi abitanti, li guardo negli occhi. Ripenso alle loro storie e mi rendo conto che la mia mente rifiuta di crederli. Contesta, respinge i loro racconti, semplicemente per proteggersi. Ci credo e non ci credo, vorrei non farmi contaminare. Sono realmente qui, ma allo stesso tempo è come se fossi in un film. È dura occuparsi di Cecenia. E se non muori ammazzato, rischi comunque di impazzire, perché il carico di lavoro è enorme. Io la vedevo, Anna, tutti i giorni. E so quanto fosse oberata dalle richieste di aiuto, dalle denunce, dalle segnalazioni. Era una donna stanca, stanca e sola. Ma non avrebbe mai mollato se non l'avessero uccisa. Una donna sola, dunque, sola e stanca. Così la ricordano i suoi colleghi e di questo ha approfittato il killer, che si è presentato praticamente a volto scoperto davanti la casa di Anna il 7 ottobre del 2006. Il killer è stato filmato dalla telecamera posta all'esterno dell'edificio. Sono pochi fotogrammi e inoltre il cappellino con visiera che portava calato sugli occhi non facilita la sua identificazione. Ma i nostri migliori esperti ci stanno lavorando. L'ipotesi su cui stiamo lavorando è che l'omicidio sia legato all'attività professionale della vittima. E Anna Politkovskaya era nota soprattutto per i suoi articoli sulla Cecenia. È dunque in questa direzione che stiamo indagando. Noi siamo fiduciosi. Lavorano su questo caso i migliori investigatori della Procura di Mosca e abbiamo la piena collaborazione sia del Ministero dell'Interno che dei servizi di sicurezza. Appena avremo delle novità ve le comunicheremo. Quello che colpisce è la sua andatura. Decisa, ma al tempo stesso tranquilla. È un uomo abbastanza giovane e sicuro di sé, che sa dove sta andando e perché. Non mi pare affatto uno squilibrato. Si tratta molto probabilmente di un omicidio su commissione. C'è un mandante, cioè, che affida l'incarico ad un'agenzia, per così dire, specializzata, la quale a sua volta si preoccupa di trovare il killer. Gli omicidi del genere qui in Russia ce ne sono ogni anno a centinaia. E le categorie più esposte sono i politici, i banchieri, gli uomini d'affari e i giornalisti. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24, quella che stiamo raccontando oggi è la storia dell'omicidio della giornalista Anna Politkovskaya. La procura di Mosca si dichiara ottimista sull'inchiesta in corso, ma è un ottimismo che non tutti condividono. Penso che prima o poi il killer di Anna verrà arrestato. Mai mandanti, mai e poi mai. Per il semplice motivo che qui in Russia non è mai successo nulla di simile. Abbiamo avuto altri due colleghi uccisi sul lavoro. E in entrambi i casi è solo con il nostro aiuto che le autorità sono riuscite ad arrestare gli esecutori materiali. Ci teniamo dunque a collaborare, tanto più in questo caso, visto che si tratta di un omicidio politico. Erano i colleghi di Anna. Di omicidio politico non vogliono sentir parlare molti sostenitori del presidente Putin, che minimizzano ogni problema. Ascoltiamo il politologo Sergei Markov. Forse voi non lo sapete, ma rispetto agli anni 90 gli omicidi politici qui in Russia sono drasticamente calati. E chi dice il contrario mente. Oppure è succube dei veleni, anzi della campagna denigratoria lanciata contro il presidente Putin. Non siamo più ai tempi di Yeltsin. Mosca, 17 dicembre 2006, più di 200 giornalisti scendono in piazza per chiedere più libertà e maggiore giustizia. qui in Russia, negli ultimi 15 anni ci sono stati ben 211 giornalisti uccisi sul lavoro. Noi oggi vogliamo ricordarli tutti. Anna Politkovskaya, giornalista di Novaya Gazeta, uccisa a Mosca il 7 ottobre 2006. Per tutti i colleghi uccisi, vi chiediamo un minuto di silenzio. Grazie di essere venuti. Non abbiamo nient'altro da aggiungere. Per noi hanno già parlato le pallottole. I rapporti con la stampa russa e le autorità sono tesi, forse anche conflittuali. E lo stesso omicidio della Politkovskaya lo dimostra. Questa uccisione ha suscitato infatti reazioni diverse anche al Cremlino. Gli unici assenti al funerale sono le autorità, rimaste in silenzio per ben 3 giorni dopo l'omicidio, finché Putin, a Dresda, il 10 ottobre del 2006, rilascia questa dichiarazione, la cui interpretazione resta controversa. Questa persona aveva un atteggiamento critico nei confronti delle autorità russe. Ma è giusto che voi sappiate che lei non aveva alcuna influenza sulla politica russa. Era conosciuta solo nell'ambiente dei giornalisti, nelle organizzazioni per i diritti umani e in Occidente. Ma ripeto, la sua influenza sulla vita politica del nostro paese era minima. Anna Politkovskaya era conosciuta e apprezzata in Occidente perché ragionava secondo la mentalità e i parametri occidentali. Ma qui in Russia non la capiva nessuno e quindi non contava assolutamente nulla. Io la rispettavo, per carità, perché era una giornalista appassionata e una grande lottatrice. Ma spesso non ero d'accordo con quello che lei scriveva. Anna aveva deciso di schierarsi all'opposizione e tutti gli argomenti di cui si occupava diventavano un pretesto per sparare contro Putin. Se non potevano servire a questo scopo, a lei non interessava. Diciamo la verità. Qui in Russia sei considerato un giornalista influente e quindi sei rispettato solo se hai la protezione dei poteri forti o fai il conduttore di un grosso talk show televisivo. Devi cioè poterti rendere utile. Se invece sei un giornalista che ragiona con la sua testa, un indipendente, non conti nulla e nessuno ti rispetta. La lista di chi avrebbe volentieri messo a tacere Anna, o peggio, la voleva morta, è lunga. A parlarcene ancora Yaroshinsky, di Novaya Gazeta, e il leader per i diritti civili, Sergei Kovalov. Può essere stata, ad esempio, la vendetta di qualcuno. Ed erano in tanti ad avere il dente avvelenato contro di lei. Dai federali, di cui Anna ha denunciato non pochi abusi, al clan di Kadyrov, l'attuale presidente, che si è reso responsabile di non pochi misfatti. E si potrebbe continuare, perché la lista è lunga. Se lei mi chiede, è possibile che Putin abbia ordinato questo omicidio? Io le rispondo di no, perché è impensabile che il nostro presidente abbia chiamato il capo dell'FSB per dargli un compito del genere e questi a sua volta abbia chiamato il suo sottoposto che ha poi trasmesso l'ordine a chi di dovere fino ad arrivare al killer. È uno schema vetusto che resiste ormai solo nei film, non certo nella realtà. Oggi i servizi segreti sanno lavorare in maniera altrettanto efficace, senza esporsi più di tanto. Ad esempio, armando la mano di un qualsiasi esagitato. L'hanno uccisa il giorno del compleanno di Putin e questo lo scagiona subito. Chi sarebbe stato così stupido? Non poteva esserci regalo più avvelenato. Chi l'ha fatto è certo che odia il nostro presidente. In questo senso, l'omicidio della Politkovskaya è omicidio politico. La Russia di Putin sapeva delle liste di proscrizione stilate dai nazionalfascisti e sapeva quanto Anna fosse odiata sia dai militari russi in Cecenia sia dagli sgherri del leader ceceno Ramzan Kadyrov. Dopo vari appelli, a maggio del 2014 esce il primo verdetto sull'omicidio della cronista. 5 sono i colpevoli, i 4 organizzatori dell'attentato e l'esecutore materiale. Sono i fratelli ceceni Rustam, Ibrahim e Zabril Makhmudov, il loro zio Gatugayev e l'ex dirigente della polizia moscovita Sergei Kazdiburmanov. Le prime condanne dopo 8 anni, ma sui mandanti dell'omicidio di Anna Politkovskaja resta il silenzio. La mia vita è difficile, certo, ma è soprattutto umiliante. A 47 anni non ho più l'età per scontrarmi con l'ostilità e avere il marchio di Reietta stampato sulla fronte. Non parlerò delle altre gioie del mio lavoro. L'avvelenamento, gli arresti, le minacce di morte telefoniche online. Naturalmente, gli articoli che mi presentano come la pazza di Mosca non mi fanno piacere. Vivere così è orribile. Vorrei un po' più di comprensione. Ma la cosa più importante è continuare a fare il mio lavoro. Raccontare quello che vedo. Amedeo Ricucci, giornalista e autore di quest'inchiesta su Anna Politkovskaja. Il 20 maggio 2014 siamo arrivati ad una sentenza con i colpevoli. Te lo aspettavi? Ma guarda, questo processo è una sorta di farsa che va avanti ormai da tanti anni, da quel famoso 7 ottobre in cui Anna è stata uccisa. In realtà si sono succeduti alla sbarra degli imputati diversi personaggi, sono tutti ceceni e sarebbero tutti comunque i pesci piccoli dell'operazione, nel senso che si parla degli esecutori materiali. Il problema è capire chi sono stati i mandanti. Ti sei fatto un'idea sui mandanti? L'assassinio di Anna Politkovskaja non può che avere origini in Cecenia. Anna si batteva per i diritti umani in Cecenia, Anna aveva messo le dita su diverse magagne, chiamiamole così, dell'esercito russo e delle forze speciali russe che avevano operato in Cecenia sia durante la prima che durante la seconda guerra, quella che era ancora in corso, è riuscita a mandare alla sbarra diversi generali russi e in più era odiatissima dal neo presidente ceceno Kadyrov, che è un fantoccio di Putin. Ma lei si batteva per i diritti della Cecenia, però poi sarebbe stata ammazzata proprio da ceceni. Questo non è un paradosso? No, assolutamente. Anna le raccontava tutte le storie di cui veniva a conoscenza e stava dalla parte della gente. Quindi il popolo ceceno non può averlo ucciso. Possono averla uccisa però quei ceceni che hanno accettato il compromesso con Mosca, quindi tanto per far dei nomi, ripeto, il clan Kadyrov, che è il clan che i russi hanno messo lì al potere perché per dare alla Cecenia una parvenza di autonomia. Kadyrov padre, ma soprattutto Kadyrov figlio, quello che adesso Ramzan, quello che al potere adesso è un furfante che si circonda di una milizia di sgherri pronti a tutto e disposti a tutto, che tengono in ostaggio la popolazione civile. Quindi all'interno di questa cerchia che vanno cercati gli assassini di Anna sono ceceni, sì, ma sono ceceni venduti all'invasore. In una parola, tu che l'hai conosciuta, che persona era Anna Politkovskaja? Guarda, era una giornalista, punto. Grazie Amedeo Ricucci. Grazie a te.